immensamente il ritmo del baion, se faccio una pazzia senza l'intenzione, in fondo è tutta colpa del baion, se rubo a qualche bocca un bacio di passione, lasciando la mia bella con i lacrimon, non è per gelosia né per distrazione, in fondo è tutta colpa del baion, se così va il mondo che gira, noi così lasciamolo girare. Spenderò fin l'ultima lira, ma però lasciatemi ballare. La colpa non è mia, è colpa del baion. Mi piace immensamente il ritmo del baion. Se faccio una pazzia senza l'intenzione, in fondo è tutta colpa del baion. Mi piace immensamente il ritmo del baion. Se faccio una pazzia senza l'intenzione, in fondo è tutta colpa del baion. Se così va il mondo che gira, noi così lasciamolo girare. Spenderò fin l'ultima lira, ma però lasciatemi ballare. Facciamo questa sera un po' di confusione, ballando tutti insieme al ritmo del baion. E se faremo tardi senza l'intenzione, in fondo sarà colpa del baion. In fondo sarà colpa del baion. In fondo sarà colpa del baion.